allorché poi subentrerà ai comandi 25 O'Clock. Sul sito si possono trovare le varie modalità di adesione per quanto riguarda la vita di questa radio, una realtà dal 1977 completamente autogestita, senza padrini politici e padroni economici. E quindi si possono trovare le varie modalità di adesione elettroniche o meno. Vado a salutare Angelina Waldes qui a Roma, un saluto a Trinity della Grazia Obliqua, Cristiano Bocci di Chemical Resistance e tanti altri progetti, Pindar con Cecilia Miradoli, Tiziano Farinacci di Pi Greco. In mezzo alle montagne di Cortina d'Ampezzo, Tabula Rasa, abbiamo Anna qui a Roma, Maglie in Umbria, fedelissima Venusia Zozzetta Stramonio, un saluto a Simone Scalisi di Audio Chaos, il medico della peste a Berlino Sara, un saluto ad Ernesti Panico Brusati, Panico da palcoscenico che suonerà anche presto qui a Roma il 23 marzo sabato. Abbiamo Giovanni Lisi del storico progetto Cordis Cinti Serpente. Mariano qui a Roma. La storia dell'ambient oscura rappresentata da Like Awake, Stefano Di Serio. E abbiamo anche un'altra vecchia conoscenza ormai di questi spazi, Francesco Cornello, che ci sta ascoltando in quel di Bergamo. E noi invece iniziamo da Udine, quindi dall'Italia, con, diciamo, una emergente, credo si possa chiamare ancora così, realtà nel campo del martial, del folk apocalittico, dell'industrial. Trattasi di Ignoto Limiti, che ha al centro delle tematiche toccate allora il fatto della guerra con tutto il portato di sangue, violenza. La guerra che è drammaticamente attuale anche ai giorni nostri, e quella della Prima Guerra Mondiale è un argomento che viene toccato e sviscerato in più modi, appunto, da Ignoto Limiti. E questa sera, però, cominceremo con due cover di questo progetto, due cover molto particolari svolti appunto con le concezioni che ho appena detto. Quindi ci ascolteremo due riletture di A Forest dei Cure e New Europeans degli Ultravox. Thank you. mentre sta andando sotto un altro cover che ci ascolteremo mercoledì prossimo, facilmente riconoscibile. Diamo dunque il merito all'operazione, direi riuscitissima, di cover riguardante Forest di Cure e New Europeans in versione morriconiana neofolk, un vecchio cavallo di battaglia degli Ultravox. Il tutto da Ignoto Militi, che avremo per molte puntate ospite qui nelle nostre selezioni. Ci perderemo appunto nella musica martial epica neosinfonica che vedrà al centro le gesta degli ultimi che andarono in guerra nella prima guerra mondiale e che spesso rimanevano ignoti, da qui il nome Ignoto Militi. Saluto Noise Cluster con Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante, Xaide con Sara Capo Fontana e Dario Arrighi, Marcello Buffetti di Monum, andiamo avanti. È bello dunque associare queste note così marzial percussive, se vogliamo, a una di quelle componenti del suono live, che è appunto il martial. Poi i liveback si sono sviluppati in tanti ambiti anche diversi: l'elettronica, l'industrial, l'hard rock, e quindi da molte puntate, come i più attenti sanno, sto mandando Iron Sky The Coming Race, colonna sonora dell'omonimo film uscito recentemente anche qui in Italia, almeno mi si dice. Questa sera è il turno di Ray Knight Dies, Escape from the Moon, Celebratory Party, Space Funeral. è questa che sta andando, Love Is Still Alive, l'abbiamo già sentita lo scorso anno. E quindi in queste settimane, anche per rispondere al buon Ernesti, ci siamo goduti la lunga colonna sonora di Iron Sky, The Coming Race, degli sloveni Laibach, che ci hanno deliziato soprattutto con sonorità martial molto evocativi e solenni come soltanto loro sanno fare. E pensate che bello questo film con questa colonna sonora. In realtà sono ben 43 pezzi, noi ce ne siamo ascoltati la maggior parte. E allora si va avanti, è il turno di due compilation. Cominciamo con From Sickness to Death, che uscì 30 anni fa per la Slaughter Natives di Marco Corbelli di Atrax Mori, ovviamente, e che conteneva artisti italiani e stranieri. La parte straniera questa sera è rappresentata dai portoghesi Nigredo, e di loro ci ascolteremo Aurora Niger. E poi abbiamo proprio Cupio Dissolvi, ossia la stessa Venusia Zozzetta Stramonio, che già 30 anni fa calcava i palchi di tutto il mondo, e di lei ci ascolteremo Cole Mesi. Due estratti dunque da questo From Sickness to Death, vecchia compilation della Slaughter Production di Marco Corbelli, con i portoghesi Nigredo, veri e propri fondali malsani e oscuri, suono decisamente malato quello dei Nigredo, e non è da meno sicuramente Venusia Zozzetta Stramonio con il suo progetto, vecchio progetto Cuppio Dissolvi. E Venusia ci dice che in realtà è un estratto di un tap loop di 45 minuti chiamato Giochi Totali e Circolari, che facevano da host all'incipit di un loro ride, allora chiamato Contagio. Corbelli decise di incoraggiare Venusia Zozzetta Stramonio di mettere proprio questo brano nella compilation. Compilation ormai di 31 anni fa. Questa che sta andando è l'ultima traccia che ci ascolteremo la prossima settimana di Teatro Satanico. L'altra compilation che avevo accennato qualche minuto fa appartiene al Cilindro Magico di Raffaele Pezzella, la 8 Tower Records, una delle sue numerose label, in genere più ambient rispetto alla casa madre, chiamiamolo così, Anaspley Sounds Group. E due anni fa usciva The Body of Horror, Music Inspired by the Cinema of David Cronenberg, quindi artisti che si sono ispirati all'opera cinematografica di David Cronenberg. Questa sera è il turno di Mario Lino Stancati, vecchia nostra conoscenza, con House of Skin, e poi i tedeschi Schloss de Gall con Metal Flash. Abbiamo estrapolato anche questa sera due episodi da body horror riguardante l'opera di David Cronenberg e naturalmente ideatore di tutto ciò è stato Raffaele Pezzella attraverso la sua Eight Tower Records. Il kraut siderale spettrale, vero proprio esempio di stasi gravitazionale che ci ha regalato Mariolino Stancati. E poi i tedeschi, Schloss de Gall con Metal Flash, un esempio di anche qui di approccio quasi horror ancor più cupo rispetto a Mariolino Stancati, effettivamente adatto per un certo tipo di cinematografia. Saluto Antonella Germano Brucato dalla Germania, dalla Sicilia. Stavo leggendo una cosa proprio qui riguardante la Germania stessa e quindi ho fatto confusione. Dalla Sicilia ci sta ascoltando Antonella. Andiamo da Sara Capofontana e Dario Arrighi con il loro progetto Xaide. È uscito il loro esordio dal nome Mille Anime, che ha anche conquistato il buon 25 O'Clock, che andrà in onda dopo il sottoscritto intorno alle 22:30, un album tra i migliori del 2024, a metà tra elettro e noise e trucchetti diciamo elettronici in genere, con l'ottima voce della stessa Sara Capofontana. E sta per partire Storia di una notte e poi ci ascolteremo la title track Mille Anime.